a letto. Sarà dormito, masturbi a letto, dormi, dormi. Ti riesci mai? Boh, tanto parole di... Ah no, è un fuori, è un negozio, farà una commissione. No, a noi vuoi convincere. Sì, infatti. Tanto non mi piace un poco, questo è sciastro. Oh, yeah. Studio. A voi la giacca per noi, mi. A chi non vuoi più nessuno, a voi la giacca per noi. Ancora Gesù, io vi bu. Infatti. Io quando posso ci sono sempre. Mai bisogna registrarlo, capito? Mi ha fatto un video, ore 17, marabarà, siamo in radio, ma tu ci sei, capito? A me mi ha proprio vedere, tu che dici che è sempre in radio. Tizio è matta con matta, No, matti bulloso! È un matti bulloso. Sarà un'emozione. Vabbè, siamo al maestro, vabbè. Ma cosa accorse con il ricevitore, vedi? Questo non può girare per i 40 canali in oggi, no? Per carità. Tutto morto. No, capigattieri. Un matti bulloso, la sera no, non gli piace entrare. E le passi così. Ma te immagini, aspetta, abbasso. Ma te immagini che su gaggio, su manzano. Cioè, ma dimmi tu, boh. Se fai un'antenna, guardi, basta vedere. E mi ha mandato la foto del New Tornado a 116 euro. Cosa mi ha fatto a me di anni tornato a 116 euro? Boh, ma a voi buoni una grazione con l'anno tornato. Boh. E gareggio questo. Un gaggio che ha posto un annuncio, cerco antenna d'attetto per la 27, era giudito, io ho una grazione che ho messo in vendita, se la vuoi, mi ha mandato un brescio, le foto, tutto tanto. E poi mi mandi le foto di un negozio che vendendo la New Group tornato a 116 euro. Boh. Mi ha detto, se guardi bene troverai anche un aringo a 20 euro, ma di cosa stiamo parlando? Sì, infatti. Se devi specificare, possibilmente in regalo, allora, non devi scrivere cerco antenna da tetto, oh, yeah. Vedi il gatto nero già farendo, quando ha già mandato le fotografie, ha detto, finalmente. Da che non vi sono spiccioli, da che non vi sono spiccioli. A Carbone si era virata di carabina, Uria. L'hanno tornato. Cioè, allora, fare un budget, no? Fare un budget che non vuoi spendere più di quello. E allora, faccia più una gran play, faccia più una boomerang. Boh. Sì, sì. Giulio! Ma ragazzi, mi ripeto, c'è Gau a fare l'antenna a Ghido. A Ghido. A Ghido Corleone. Sono arrivato da un amico che lavorava alla Telefunken. Ah, guarda. Una linea. Sì, sì. Una linea della IAE, tu non so Senti, se qualcuno se la ricorda. L'FR 25. Beh Luca, lì se ci sentiamo più tardi devo andare in farmacia, prendiamo una medicina che non vi letto mangiare e la devo andare a ritirare. Ci sentiamo alle 2. Io? Va bene, va bene. Sì, già acceso quanto lo sto ascoltando in 40 minuti. No, ma sono belle. Tutti i modi vanno bene. Forza ti sei. Sì, in alto. Hello! Non hai capito? Sì, ma se si prova all'uomo, prima si è poco meglio, ma lo sento sempre all'uomo. Ma... Sì, per mamma, per il momento, ma vedi, ma ci facciamo i mail. Hola, c'è qualcuno? Thank you. sentiamo, avanti. 9:10 Radio 5. Sì, ottima radio, bravo, bravo, bella scelta. Sì, ok, dai, ci sentiamo, ho gli altri canali che mi stanno sblatterando.